Le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Dall'Iran un duro attacco ad Israele. L'Ayatollah Khamenei e Ahmadinejad dicono che l'olocausto è stato un pretesto per creare lo Stato ebraico. L'unica possibilità per i palestinesi, dicono, è la Jihad. Una decina di arresti in Pakistan per l'attacco alla squadra di cricket dello Sri Lanka, ma fra le persone in manette non c'è nessuno del comando terroristico. Innalzamento dell'età pensionabile per le donne nella pubblica amministrazione, critici sindacati, anche la CISL accusa il governo non ci ha consultati. Per Epifani della CGL le donne pagano 3 volte. Borsa in recupero oggi dopo 2 giorni neri. Lufthansa lancia la sfida dall'Italia. Dal 1 aprile 3 rotte nazionali da Malpensa per Roma, Bari e Napoli. La compagnia tedesca accelera i piani di sviluppo sull'aeroporto. Stupro della Caffarella. Il presunto terzo uomo era all'estero al momento dell'aggressione alla coppia di adolescenti. Una buona giornata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. E benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large. Prima di passare a parlare dell'Iran, un dato che è appena arrivato in redazione, che è stato diffuso dall'INPS e che riguarda la crisi. A febbraio la cassa integrazione è cresciuta del 553%. Tra poco torneremo a parlare tanto di ammortizzatori sociali quanto di pensioni in vista del vertice oggi tra governo e sindacati, ma andiamo adesso appunto a Teheran. Andiamo a Teheran perché ci sono state le ultime dichiarazioni dell'Ayatollah Khomeini, che è la guida religiosa del paese. Dichiarazioni ancora una volta su Israele e ancora una volta sono dichiarazioni molto dure contro lo Stato ebraico. In una conferenza internazionale sul sostegno alla Palestina, Khamenei ha detto che l'olocausto è stato un pretesto per creare Israele, che è un cancro. E ancora l'Ayatollah ha detto di essere contrario a qualsiasi trattativa fra palestinesi e israeliani, perché i palestinesi potranno ottenere risultati solo con la Jihad. Tutto questo mentre con l'Iran il mondo occidentale tenta di avviare un dialogo. Alberto Negri, buongiorno. Buongiorno a voi. Inviato del Sole 24 Ore, grande conoscitore dell'Iran. Allora, che effetto fanno queste dichiarazioni e perché in questo momento? Il discorso è evidentemente molto duro, persino raggelante in alcuni passaggi, quando Ali Khamenei, la guida suprema, definisce Israele un cancro, un tumore, e poi si dice contrario a ogni trattativa tra israeliani e palestinesi, attacca l'amministrazione Obama per aver giustificato l'operazione piombo fuso a Gaza. Tutto questo arriva proprio all'indomani della visita della Clinton in Israele, dove certamente queste dichiarazioni rendono sempre più difficile pensare a un nuovo governo israeliano, condotto per di più dalla destra di Netanyahu, disponibile a un dialogo sull'Iran. Ma al di là di questo, che cosa c'è in queste dichiarazioni che sembrano persino raggelanti ma anche irrazionali in un certo senso? E c'è la realtà che l'Iran sente una fortissima pressione da parte della comunità internazionale, da parte della stessa amministrazione Bush, che sta tentando anche la via di Mosca per fare pressioni, e comunque il tentativo americano in qualche modo di circoscrivere la questione del nucleare. La stessa azione americana nel mondo arabo, dove sta praticamente tendendo i fili di tutti gli alleati arabi in Medio Oriente, che in qualche modo per cercare di risolvere la questione palestinese o di avviare perlomeno un dialogo. L'iniziativa americana stessa in Siria, grande alleato dell'Iran, e gli iraniani irritatissimi che fanno delle dichiarazioni avvertendo Damasco che il nemico è sempre Israele. Insomma, tutto questo fa sentire all'Iran la pressione internazionale e forse in qualche modo spiega, anche se totalmente non giustifica, il discorso di Khamenei. Grazie dunque al nostro Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore e autore di un libro uscito di recente, Il turbante e la corona, Iran 30 anni dopo. Ci spiegava Alberto Negri che è, diciamo, tutto lo scenario internazionale in movimento, e in tutto questo il Pakistan ha un ruolo. Il Pakistan ha un ruolo fondamentale naturalmente in tutto ciò. Non dimentichiamo che il Pakistan è anche uno dei paesi che ha l'atomica, a differenza invece dell'Iran. E a proposito del Pakistan, sono stati oggi arrestati alcuni presunti responsabili dell'attacco di ieri alla squadra di cricket dello Sri Lanka, quindi ancora un'operazione antiterrorismo. È difficile che il cricket internazionale si giochi ancora in Pakistan nel prossimo futuro. Lo ammette Arin Logard, amministratore delegato dell'International Cricket Council, dopo l'attentato. Altre nazionali stanno infatti cancellando tournée nel paese. La polizia ha arrestato una decina di persone e ne sta interrogando altre, ma gli attentatori, giovani e ben addestrati, se li ha fatti tutti scappare. Il governo del Punjab, regione dove è avvenuto l'attacco, ha promesso una ricompensa di circa $125,000 per chi fornirà informazioni sul comando. L'impressione è che le indagini siano in alto mare. L'attentato ha inferto un ulteriore colpo al già debole governo di Ali Zardari, spiega ai nostri microfoni il professor Isaac Fir, esperto in trasformazioni politiche nel sud dell'Asia, aggiungendo che l'instabilità politica è enorme, soprattutto dopo la decisione della Suprema Corte di interdire dalla vita politica l'ex premier conservatore Nawaz Sharif e suo fratello, che era amministratore del Punjab. Dopo le manifestazioni di protesta, Zardari aveva respinto le accuse. Anche oggi sul Wall Street Journal sente il dovere di difendere il suo governo. Non abbiamo negoziato e non negozieremo con gli estremisti talebani e i terroristi, scrive riferendosi all'accordo stretto con i talebani della Valle dello Swat, che rischia di diventare una nuova roccaforte del fondamentalismo. In cambio del cessate il fuoco nella regione, Islamabad ha concesso l'applicazione della Sharia, la legge islamica, che penalizzerà soprattutto le donne, rafforzando gli estremisti. Cristina Balotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E veniamo all'Italia, con il dibattito sulle pensioni. Il governo ha consegnato alla Commissione europea la bozza di riforma per aumentare gradualmente l'età pensionabile delle donne che lavorano nella pubblica amministrazione. Innalzamento dell'età che partirebbe dal 2010 per arrivare a quota 65 anni nel 2018, quindi con una serie di gradini. Questo viene fatto per rispettare una sentenza della Corte di Giustizia europea. Da più parti, però, all'interno dello stesso governo si è fatto sapere che questo non è il momento per mettere mano a tutto il sistema del previdenziale. Insomma, della questione pensioni, ma anche dei fondi per le grandi opere, si parlerà nel pomeriggio nell'incontro governo-parti sociali a Palazzo Chigi. Paola Nania. Sì, buongiorno, l'appuntamento è però alle 17:30, a quell'ora si incontreranno il governo, parti sociali, dunque sindacati e Confindustria per parlare di crisi economica e crisi occupazionale. Sul tavolo anche una prima discussione sul progetto, come dicevate voi, di equiparare l'età di donne e uomini nel pubblico impiego per andare in pensione. Faccio detto poco fa il ministro del welfare Maurizio Sacconi. Sì, si è fatto tanto rumore per nulla, perché da un lato è da tempo nota la sentenza della Corte di Giustizia europea che ci impone di definire un percorso di omologazione dei requisiti della pensione di vecchiaia per uomini e donne nel pubblico impiego e nel solo pubblico impiego. Per l'altro non è stato deciso nulla. Scusate, c'è stato un problema evidentemente come già, sulla linea. Come già avrete notato. Ebbene, abbiamo sentito l'opinione del ministro del welfare Maurizio Sacconi, sempre al microfono della nostra Paola Nania. Ascoltiamo l'opinione dell'ex ministro del welfare del Partito Democratico, Cesare Damiano. Se si affronta il tema dell'innalzamento dell'età pensionabile delle donne, bisogna prima di questo farsi una domanda. Come riconoscere alle donne che hanno una discontinuità di carriera il tempo dedicato alla cura come tempo utile per il risultato pensionistico? E di riforma delle pensioni parleremo anche fra poco, dopo le 13:15, con Elsa Fornero, con l'economista Elsa Fornero. Il salone dell'auto di Ginevra al tempo della crisi. Ieri, per esempio, si è saputo che a febbraio la General Motors ha registrato una contrazione delle vendite del 53%, quando era atteso un calo del 45%. Allora, come reagiscono i costruttori che a Ginevra mettono in mostra i loro gioielli? Andrea Malan da Ginevra. Andrea. Buongiorno a tutti. Il salone di Ginevra è, come tutti gli anni, pieno di novità che quest'anno puntano anche sull'ecologia, anche se non solamente sull'ecologia. Abbiamo molti costruttori che scommettono per esempio sull'auto elettrica. La stessa GM che hai citato ha portato qui in Europa il prototipo dell'auto ibrida che aveva già presentato a Detroit per il mercato americano e promette di farlo arrivare nelle concessionarie l'anno prossimo. La Pininfarina ha appena presentato per la commercializzazione già da quest'anno il suo modello di auto elettrica a quattro posti da città con il gruppo francese Bolloré. Quindi sembra che qualcosa si muova verso appunto una maggiore affermazione dell'auto elettrica, anche se molti costruttori, va detto, rimangono su questo scettici. Uno di questi è la Fiat, che ha presentato anch'essa una grossa novità in campo motoristico, ma non elettrico, bensì nel campo dei motori tradizionali, cioè una nuova tecnologia che chiama multi-air di gestione delle valvole, che è complessa tecnicamente da spiegare, ma che in sostanza permette un aumento di potenza e in parallelo una riduzione dei consumi, e che verrà applicata a partire dall'ultimo trimestre di quest'anno, prima sull'Alfa Romeo Mito e poi pian piano su tutti gli altri motori a benzina del gruppo. Grazie allora ad Andrea Malano, collegato con noi dal Salone dell'Auto di Ginevra. Tra l'altro continuiamo a parlare di auto, meglio di titoli automobilistici. Sì, perché vanno bene oggi, in particolar modo però Fiat. Deborah Rosciani, allora si tira un po' il fiato dopo due giorni molto pesanti. Sì, le borse tirano il fiato dopo due giornate difficilissime, particolarmente quella di lunedì. Recupero di circa due punti e mezzo per gli indici del vecchio continente, trainati in realtà da Francoforte, che sta guadagnando quasi 3 punti, Milano più 2, trainata proprio da Fiat. Più 8,91% per il lingotto in questo momento. Al di là delle prospettive indicate dal Salone di Ginevra, ci sono anche rapporti positivi delle case di investimento. Per Merrill Lynch il titolo è buy, cioè è comprare, perché Merrill Lynch sostiene che ci sono segnali di ripresa del settore auto che potranno partire dal secondo trimestre. Però vanno bene tutti i titoli del settore in Europa, come dicevate. Segnalo Renault a Parigi più 7,90 e Daimler a Francoforte più 6,21%. È tutto. Grazie Deborah Rosciani. Noi ora parliamo di libri, ma anche di cinema. Sì, perché a un certo punto della carriera molti attori scrivono un'autobiografia. Quella di cui stiamo per parlare però è diversa dal solito, perché tra dialetto romanesco e ricette di cucina popolare è il racconto della vita di un'attrice particolare. Si è occupata per 50 anni dei camerini degli studi dello stabilimento Rizzoli, su al Colle Palatino. Ma l'incontro con un signore gentile le ha cambiato la vita e l'ha fatta diventare uno dei volti più popolari della commedia all'italiana. E basta con gli arrosti, alle mie signore aspettiamo gli umidi, fagioli col salsiccio. Puntature dei maiali. Lei è Anna Longhi, romanissima. Alberto Sordi lo conosceva da quando aveva poco più di 20 anni, e 20 anni dopo lui l'ha fatta debuttare come attrice nel film Dove va in vacanza? Una scultura gigantesca di staccioli. Ma che dice quello? E che dice? Spiega. Che è buona mela, re? No, non fa ste cose. E non se fanno riconoscere a tutti. Dal malato immaginario al tassinaro che le vale un David, Anna accompagna sempre Sordi come una sorella. Ora lo ricorda nel libro In viaggio con Alberto e subito vuole chiarire. Non era taccagno. No, non è vero, non era tirchio. Era un uomo che forse non sembrava. Invece lui era molto, no, molto, molto sensibile, ha amato tanto le persone che avevano bisogno, ha dato tutto, tutto. Ma perché Sordi aveva scelto proprio lei? Io tuttora sono, quando finisco che giro, ho fatto più di 70-80 film, che giro, io sono una donna normale, ritorno, vado a casa, faccio da mangiare, vado a fare la spesa, vado al mercato. Alberto mi diceva sempre, Alberto, io lo chiamavo signor Sordi veramente, lui mi diceva, Anna, rimani sempre come sei, vera, perché tu devi rimanere così. Guarda che bella sedia, ho, metta la sedia qui, ci vado io a piatta qualche cosa da bere. E da ragnare. E come no? Beh, vabbè, te l'abbiamo. Ma chi sono Anna? Questi? Chi? Che stanno a fotografare? Chi? Questa è la mia signora. Che fotografate? Anna ripercorre la sua carriera, la sua vita e i suoi dolori, anche quello per la perdita di Alberto, al quale solo ora riesce a dare del tu. Ma sottolinea, io continuo a lavorare. Perché sai, dentro casa io ho 75 anni, perciò ti senti come una cosa morta. Non è tanto quello, perché non è che mi pagano tanto, ma a me perché mi dà la vita. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Anche la CISL è contraria all'innalzamento dell'età pensionabile per le donne nel pubblico impiego, ribadisce la sua contrarietà alla CGIL, si scarica tutto sulle spalle dei lavoratori, dice Epifani. In questo clima, oggi pomeriggio, si svolge l'incontro tra governo e parti sociali sulla crisi. Israele è un cancro da estirpare, l'unica soluzione per la Palestina è la guerra santa, lo ha detto l'Ayatollah Khamenei. La guida religiosa del paese ha preso di mira anche Barack Obama, che come Bush difende il terrorismo israeliano. In Pakistan intanto è caccia ai terroristi che ieri hanno sferrato un attacco alla nazionale di cricket dello Sri Lanka. Almeno 10 persone sono state arrestate, anche se precisa la polizia, tra queste non c'è nessuno dei componenti del comando terroristico. Lufthansa lancia la sfida dall'Italia sul mercato italiano. Dal 1 aprile 3 rotte nazionali da Malpensa per Roma Fiumicino, Bari e Napoli. Sono tutti negativi gli esami sui reperti trovati nel parco della Caffarella a Roma dopo lo stupro di San Valentino. Sul tavolo del pubblico ministero c'è la relazione finale della polizia scientifica che scagiona definitivamente i due romeni arrestati. È stato ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale di Viterbo il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Riccardo Nencini, rimasto ferito in un incidente stradale. I due uomini di scorta, anche loro gravemente feriti, sono stati trasportati, uno a Terni e l'altro a Roma. E torniamo a parlare di pensioni. Lo accennavamo prima, il governo ha presentato alla Commissione europea la bozza di riforma per aumentare gradualmente l'età pensionabile delle donne che lavorano nella pubblica amministrazione fino ad arrivare a quota 65 anni nel 2018. Ci sono le posizioni sindacali che sono piuttosto dure. Eh sì, sono piuttosto dure sia da parte della CGIL che da parte della CISL. Per quanto riguarda la CGIL, Guglielmo Epifani ha detto che innalzare l'età pensionabile delle donne significa scaricare i costi della crisi due volte sui lavoratori e tre volte sulle donne lavoratrici. Entrambi i sindacati, poi sia CISL che CGIL, contestano anche il modo in cui il governo ha portato avanti questa cosa, nel senso che, dice Bonanni della CISL, è inammissibile che su un tema così delicato il governo abbia deciso unilateralmente senza aprire un confronto con il sindacato. E a proposito di temi delicati, sembra tornare in primo piano quello di una riforma delle pensioni più generale. Lo riporta ad esempio in un'intervista sul Corriere della Sera oggi l'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Sia Brunetta che Sacconi hanno detto che non è il momento di una riforma più estesa. Elsa Fornero, docente di economia politica all'Università di Torino, editorialista del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Lei come la vede? Ma io intanto direi che per esempio il presidente Ciampi usa parole molto equilibrate e credo che sia necessario da parte di tutti. Credo anch'io che in questo momento riparlare di una riforma delle pensioni corrisponda soltanto ad agitare gli animi senza portare a nulla di concreto. Quello che il presidente Ciampi dice che è assolutamente necessario è che occorrerebbe portare a compimento la riforma già attuata. Quindi noi abbiamo un sentiero segnato che non abbiamo ancora percorso e quello che Ciampi dice è stiamo su quel sentiero. Credo che questo voglia dire riprendere in mano il contributivo e non fare nulla che sia in contrasto con questo. Ecco, Elsa Fornero, ogni tanto si ritorna a parlare appunto di riforma delle pensioni, sembra un po' uno spauracchio che viene tirato fuori ogni due anni, potremmo dire. Che cosa però manca all'attuale riforma, visto che forse questo non è il momento per ampliare una riforma dell'intero sistema pensionistico, c'è però qualche elemento che manca? Guardi, le faccio un esempio. Si dice è necessario aumentare l'età di pensionamento e noi siamo sempre lì a intervenire con obblighi che il governo può stabilire nei confronti delle persone e che hanno dei costi sociali sia per le persone ma anche per le imprese, mentre invece il criterio che la riforma del 95 aveva stabilito è un criterio di flessibilità. Per cui, mentre è giusto equiparare uomini e donne, la cosa sensata da fare sarebbe quella, per esempio, di dire noi vorremmo istituire una fascia di età di pensionamento flessibile all'interno della quale ciascuno decide tenendo conto delle sue considerazioni personali e questa fascia va, per esempio, da 62 a 67. È anche ovvio che chi va prima prende un po' meno. Ma questo è un discorso che tutti sono in grado di capire. Professoressa, ci sembra di capire dunque che lei concordi col fatto di parificare l'età pensionabile, tornando all'altro tema di giornata, di parificare l'età pensionabile tra donne e uomini. Sì, anche qui non dimentichiamoci che questo è in un certo senso un atto dovuto, la Corte di Giustizia ha messo in mora il Paese su argomentazioni che potranno, su cui si può convenire oppure essere in disaccordo, ma ha detto qui c'è una violazione di norme sulla parità di trattamento, ha individuato questa violazione nell'ambito delle pensioni delle dipendenti pubbliche rispetto ai colleghi uomini e ha detto questa discrepanza va sanata. Il governo ha deciso di sanarla nell'unico modo che è ragionevole dal punto di vista dei conti, e cioè non abbassando l'età di pensionamento, l'età legale degli uomini a 60 anni come per le donne, ma portando peraltro in maniera graduale l'età di pensionamento delle donne a 65. Un ulteriore intervento che desse flessibilità sarebbe nello spirito della sentenza, perché se io stabilisco che la flessibilità vale per entrambi i generi, non violo la norma di parità e ripristinerebbe quel principio di flessibilità che secondo me è importante e che va ripreso. Grazie allora ad Elsa Fornero, docente di economia politica all'Università di Torino. Noi ora parliamo della cronaca, Simone. Sì, perché continua il giallo sullo stupro avvenuto il giorno di San Valentino nel parco della Caffarella. La polizia ha dichiarato di non essere sulle tracce di un terzo uomo. Non cerchiamo un terzo uomo, hanno detto oggi dalla procura. Un terzo uomo che si presumeva fosse stato identificato dopo la testimonianza della vittima, ma che risultava essere all'estero. Lo stupro della Caffarella è un rebus a questo punto, dopo che l'esame del DNA degli stupratori ha scagionato i due romeni arrestati il 17 febbraio. Perché Alexandru Loios, detto il biondino, si è autoaccusato mettendo in trappola il pregiudicato Carol Rax? Secondo indiscrezioni che filtrano dalla questura, Loios stava cercando di coprire le spalle a qualcuno e avrebbe lui le chiavi del segreto. Intanto i due accusati restano in carcere. Perfino il sindaco Alemanno è intervenuto stamattina. Bisogna consegnare alla giustizia i colpevoli e non gli innocenti, ha detto. Il pubblico ministero Vincenzo Barba riceverà entro il fine settimana le analisi definitive del DNA e dovrà pronunciarsi lunedì sulla richiesta di scarcerazione. Nicola Cardo, GR24, Il Sole 24 Ore. Ricordate il caso dei boss mafiosi scarcerati a Gela perché il magistrato aveva impiegato ben 8 anni per scrivere le motivazioni della sentenza. Quel magistrato, Edi Pinatto, fu alla fine rimosso dal suo incarico per decisione del CSM. Ma ora da Reggio Calabria arriva una storia simile. A causa del mancato deposito della sentenza di condanna emessa a suo carico dal GUP di Reggio Calabria, un presunto affiliato all''ndrangheta è stato scarcerato per scadenza dei termini di carcerazione preventiva. È una vicenda emblematica delle lentezze della giustizia anche quando affronta casi importanti di criminalità organizzata. Riguarda Cosimo Romanello, 50 anni, presunto esponente di una cosca di Gioiosa Ionica nella Locride, la cosca Coluccio, di cui è a capo Giuseppe Coluccio, che venne arrestato nell'agosto scorso in Canada dopo un periodo di latitanza. Romanello da alcune settimane è un uomo libero, circola nel suo paese, malgrado una condanna ad 8 anni di reclusione inflittagli dal GUP distrettuale di Reggio Calabria a conclusione di un processo scaturito da un'operazione condotta dalla DDA di Reggio Calabria nel 2005, un'operazione su presunte estorsioni nella zona di Gioiosa Ionica. Il Tribunale ha accolto infatti l'istanza di scarcerazione presentata dall'avvocato di Romanello perché a causa del mancato deposito della motivazione della condanna sono scaduti i termini di carcerazione preventiva. Filippo Veltri, GR24, Solo 24 Ore, Reggio Calabria. Fino a domenica Bologna torna ad essere la capitale dei comics con la terza edizione del Festival Internazionale del Fumetto. Uno dei curatori della rassegna, Emilio Varrà, al microfono di Adriana Fracchia. C'è, come tutti gli anni, una mostra dedicata a un grande maestro della tradizione fumettistica italiana e quest'anno sarà dedicata a Sergio Toppi, al Museo Archeologico. Grandissimo maestro che ha influenzato anche tantissimi fumettisti americani, giapponesi, francesi. Particolarità stilistica dell'opera di Toppi, che ha un segno appunto estremamente riconoscibile, con un tratteggio e con un modo di disegnare e di costruire le figure assolutamente unico. E dall'altra parte l'oggetto invece del suo discorso, che è fondamentalmente la storia. Si va dalla preistoria fino ai giorni nostri, fino addirittura alla fantascienza. L'altro grande ospite del festival sarà Charles Burns, che è grandissimo autore, uno dei maestri del fumetto contemporaneo americano, che avrà la mostra, l'altra grande mostra del festival, alla Pinacoteca Nazionale. E l'ultimo è un altro filone del festival, è sicuramente il nero. Siamo poco colorati quest'anno sicuramente, perché Bass e Ott giocano tantissimo sul nero. Il terzo grande autore che gioca sul nero sarà Altan, di cui al Museo della Musica presentiamo i suoi romanzi e fumetti, e anche lui gioca sul nero. Quindi il rapporto con le arti, nero e storia, sono i filoni del festival, direi. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Anche la CISL è contraria all'innalzamento dell'età pensionabile per le donne nel pubblico impiego, ribadisce la sua contrarietà anche la CGIL, si scarica tutto sulle spalle dei lavoratori, dice Epifani. In questo clima oggi pomeriggio si svolge l'incontro tra governo e parti sociali sulla crisi. Sentiamo il ministro del welfare Maurizio Sacconi. Si è fatto tanto rumore per nulla, perché da un lato è da tempo nota la sentenza della Corte di Giustizia Europea che ci impone di definire un percorso di omologazione dei requisiti della pensione di vecchiaia per uomini e donne nel pubblico impiego e nel solo pubblico impiego. Per l'altro non è stato deciso nulla. Riparte a febbraio la corsa alla cassa integrazione. C'è stato un incremento del 553% rispetto allo stesso mese del 2008. E quanto rende noto l'INPS, che parla di un aumento eccezionale per la cassa integrazione ordinaria. Lufthansa lancia dal 1 aprile tre rotte nazionali da Malpensa per Roma Fiumicino, per Bari e per Napoli. Ne parliamo tra un attimo. Israele è un cancro da estirpare. L'unica soluzione per la Palestina è la guerra santa. Lo ha detto l'Ayatollah Khamenei, guida spirituale del l'Iran. Il ministro Frattini annuncia: andrò presto a Teheran. In Pakistan è caccia ai terroristi che ieri hanno sferrato un attacco alla nazionale di cricket dello Sri Lanka. Almeno 10 persone sono state arrestate. Sono tutti negativi gli esami sui reperti trovati nel parco della Caffarella a Roma dopo lo stupro di San Valentino. Sul tavolo del pubblico ministero c'è la relazione finale della polizia scientifica che scagiona definitivamente i due romeni arrestati. È stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Viterbo il presidente del consiglio regionale della Toscana, Riccardo Nencini, rimasto ferito in un incidente stradale. Avete sentito nel nostro piccolo GR riepilogativo. Lufthansa lancia la sfida dall'Italia sul mercato italiano, quindi su quello di casa nostra. Dal 1 aprile tre rotte nazionali da Malpensa per Roma Fiumicino, quattro voli al giorno, per Bari con un volo al giorno e per Napoli con due voli. Lufthansa Italia ha deciso così anche di accelerare i suoi piani di sviluppo su Malpensa, che è stato di fatto abbandonato da Air Italia nell'estate del 2008. Gianni Dragoni, che per il Sole 24 Ore segue le vicende delle compagnie aeree e di Alitalia in particolare. Buongiorno. Buongiorno. Allora Gianni, questa Alitalia stretta da una parte sulla tratta Roma-Milano da i treni, dall'alta velocità, e dall'altra parte da Lufthansa, che è ben decisa ad entrare sul mercato. Come la vedi? La concorrenza che è stata tenuta nei cieli, che è stata tenuta a bada dal decreto legge che in agosto ha consentito di pilotare la cessione di Alitalia alla nuova cordata CAI e anche One, impedendo all'antitrust di intervenire e di autorizzare quella che è stata la ricostituzione di un monopolio, sta tornando perché ci sono dei vuoti, ci sono delle rotte lasciate libere, e uno dei vettori più importanti d'Europa, del mondo, Lufthansa, non potendo entrare sulla Linate Roma, che è la vera rotta d'oro del trasporto aereo europeo, per ora ci prova da Malpensa, dove Malpensa Fiumicino in particolare è una rotta già coperta alcuni mesi da una compagnia low cost, la britannica EasyJet. Poi Malpensa Bari, Malpensa Napoli, quindi è un segnale positivo per il mercato, per i consumatori, meno per la nuova Alitalia, che comunque, avendo un concorrente, potrà cercare forse di fare meglio oltre al treno sulla Roma Milano. Ecco, a proposito dei consumatori, Gianni, ci potrebbe essere anche, per esempio, una modifica delle tariffe, visto l'ingresso di questa nuova concorrenza, almeno su queste tre rotte? Ci potrà essere, più c'è concorrenza e più le tariffe possono migliorare per chi viaggia. Naturalmente la rotta da Malpensa a Roma non è altrettanto appetibile per i consumatori come la rotta da Milano Linate a Roma. Faccio un esempio: I collegamenti dalla città di Milano all'aeroporto di Malpensa ferroviari sono da una stazione, non dalla stazione centrale ma dalla stazione Cadorna, quindi sono collegamenti meno, cioè, un po' svantaggiati. Il percorso in taxi, per chi non va con la propria automobile, c'è una tariffa fissa da Milano a Malpensa che costa 85 euro solo andata, che è quasi quanto certi biglietti aerei sulla tratta Malpensa-Roma. Invece dal centro di Milano a Linate il taxi costa 15-20 euro, quindi sia chi arrivi a Milano che parta da Malpensa avrebbe un costo più alto se va in taxi, quindi questo rende più debole questa rotta, però crea comunque un'alternativa che prima non c'era, quindi è positivo. Grazie Gianni Dragoni, collega del Sole 24 Ore, per essere stato con noi. Abbiamo parlato, Alessandra, della cassa integrazione, abbiamo parlato di welfare, ma c'è un altro tipo di welfare che sta avanzando. Sì, quello che di fatto stanno mettendo in atto alcune parrocchie in varie zone d'Italia, le abbiamo così definite le parrocchie anticrisi. E allora oggi con Maria Luisa Pezzali andiamo a Chieti e a Pitigliano. Dai fondi di solidarietà alle tessere a punti per la spesa fino ai prestiti a tasso zero. Quello che stiamo raccontando è una sorta di welfare state delle parrocchie che, con una crisi dalle vittime mai toccate prima, hanno trasformato in qualcosa di più il loro impegno tradizionale a sostegno dei bisognosi. Le diocesi di Chieti Vasto e di Lanciano Ortona hanno appena annunciato un progetto di microcredito etico-sociale. La Chiesa si farà garante per l'accesso al credito in banca di chi non ha i requisiti. L'accordo è stato fatto con la Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina. Il direttore Fabrizio Di Marco. Verrà costituito un fondo di solidarietà raddoppiato dalla Banca di Credito Cooperativo per superare le necessità immediate, magari pagamenti di bollette, affitto, fino a 5.000 euro. La ratizzazione sarà con un minimo di 36 mesi, massimo 60 mesi, a tasso zero. Diamo credito proprio sulla fiducia, perché con la crisi mondiale il problema fondamentale è proprio quello della fiducia. E nella diocesi di Pitigliano, Sovano Orbetello, si è costituito un fondo di quasi 200.000 euro con le tre banche di credito cooperativo della zona per prestiti fino a 5.000 euro aperti anche alle piccole imprese. Il vescovo Mario Meini. Non proprio a tasso zero, ma quasi. Se uno prende un prestito minimo dovrà restituire, credo, 14 euro mensili, roba del genere. Eventualmente piccole imprese, qualunque possa essere la necessità del territorio, perché il nostro territorio, molto vasto, però ha tutte piccole realtà. Da noi non esistono grandi industrie, non esiste nemmeno una città vera e propria, no? Tutte piccole realtà e quindi anche piccole imprese per le quali una piccola boccata d'ossigeno potrebbe essere quanto mai salutare. In questo momento si tratta di non deludere, ora più che mai. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora continuiamo a parlare di crisi, ma parliamo di altri paesi. Fino a qualche tempo fa era considerato un paese virtuoso dal punto di vista economico, e stiamo parlando della Spagna, protagonista di un boom quasi da dopoguerra. Invece ora anche la Spagna sta soffrendo. Michele Calcaterra, corrispondente del Sole 24 Ore da Madrid, che succede? Beh, la Spagna viaggiava a una velocità di crescita del 3-3,5%, ora in recessione, i disoccupati sono circa 4 milioni, tutto questo in appena 3 o 4 mesi. Perché? Perché il modello economico spagnolo è stato ed è tuttora molto labor intensive, e quindi è tutto molto concentrato nell'immobiliare, le costruzioni 14% del PIL, l'auto 6% del PIL, il turismo 7% del PIL, tutti i settori che sono caduti tra il 30 e il 50% negli ultimi mesi. Questo ha fatto sì che l'economia abbia avuto un crollo, un vero crollo perpendicolare rispetto ad altri paesi dove il modello economico è diverso. Che cosa succederà adesso? Succederà che per alcuni altri mesi la Spagna continuerà a soffrire più degli altri paesi, in attesa che l'economia abbia una svolta. In questo momento la Spagna comunque ha il vantaggio di avere dei conti pubblici abbastanza sani, soprattutto un indebitamento un indebitamento modesto rispetto ad altri paesi, equivalente al 45% del PIL, e ha una situazione previdenziale ottima, buona, in surplus, che può aiutare a tirare avanti. Per cui bisognerà che Zapatero cambi modello economico del paese, vada più sulle nuove tecnologie. L'investimento in ricerca è molto basso in Spagna, l'1,2% del PIL, insomma ci sono degli aggiustamenti da fare. E questo grazie quindi a Michele Calcaterra da Madrid. Questa era la situazione della Spagna, ma fra i paesi che avevano grandi speranze, a quanto pare ora devono fare i conti con la crisi, c'è anche la Polonia. Giulia Crivelli, chi ne parla oggi? Buongiorno, sì, ne hanno parlato nei giorni scorsi e ancora oggi l'Independence in Gran Bretagna. La Gran Bretagna è stata la meta preferita di moltissimi polacchi, sostanzialmente per l'assenza di una vera barriera linguistica, nel senso che la maggior parte dei polacchi imparavano l'inglese a scuola, quindi quando si sono aperte le frontiere è stato abbastanza naturale per loro andare a cercare lavoro in Inghilterra se volevano lasciare il loro paese, naturalmente spedendo a casa importanti rimesse. Naturalmente la Gran Bretagna, sappiamo, e in particolare la zona, l'Inghilterra, quindi tutta la zona di Londra, intorno a Londra, sta soffrendo moltissimo della crisi. Chi aveva magari una cameriera o una badante o una babysitter polacca e ha perso il lavoro, o comunque non ha avuto il bonus degli scorsi anni, ha dovuto anche tagliare su queste spese, quindi molti polacchi stanno tornando a casa oppure rimangono in Gran Bretagna ma con la prospettiva di non avere un lavoro o di avere un lavoro molto precario. Giulia, rivolta dei piccoli azionisti, dove? È Wirtschaftswoche, l'equivalente tedesco di Business Week, questo settimanale economico che già qualche settimana fa... E complimenti per la pronuncia. Mamma tedesca, che già qualche settimana fa titolava scegliamo tra avere lavoro o avere dei dividendi, quindi appunto piani a breve termine, distribuire dividendi oppure tenerci dividendi per cercare di salvare le aziende a medio termine. Adesso si va un passo oltre, tutti questi bonus milionari a volte che sono stati elargiti negli anni scorsi a manager che a questo punto devono essere ritenuti in parte responsabili, se non altro di non aver visto arrivare la crisi, e quindi soprattutto i piccoli azionisti propongono questo, che innanzitutto si congelino immediatamente gli stipendi e i bonus, l'ha fatto anche Peugeot in Francia col suo presidente, e poi magari anche che si cominci a ipotizzare che un po' di questi bonus vengano restituiti. Molto difficile naturalmente da fare in pratica, un po' perché in parte erano in azioni, quindi ormai c'è ben poco da restituire, e poi perché molto spesso i soldi elargiti sono già stati spesi. Giulia, brevemente, nei giorni scorsi abbiamo parlato di questa storia del cinese che avrebbe dovuto comprare all'asta due bronzi della collezione di Yves Saint Laurent, ma poi ha detto no grazie, non ho i soldi. Come è andata a finire la storia? Ha fatto veramente il furbo, insomma, perché in generale in queste aste milionarie devi dare fior di garanzie prima che ti sia assegnato un lotto. Lui evidentemente se l'è fatto assegnare con chissà quali garanzie e poi appunto ha fatto la super furbata, me li tengo ma non li pago. È tornato in patria, su questi bronzi c'era stata naturalmente una grande polemica, cioè i cinesi avevano prima cercato, diciamo, una via meno furba, cioè non una scorciatoia ma una via più ufficiale, cioè non mettete all'asta quei bronzi perché ce li avete rubati tanto tempo fa, ridateceli. Chi aveva organizzato l'asta, che poi è il compagno di Yves Saint Laurent che li aveva comprati, ha detto no, noi li mettiamo all'asta. Così si è presentato questo cinese, è tornato in patria con i suoi bronzi e scrive il Wall Street Journal in prima pagina, è l'eroe locale del momento. In molti naturalmente sospettano che sia stata una manovra tutt'altro che così casuale, che sia stata pianificata dal governo cinese, che però in questo momento l'ha avuta vinta, quindi tutto sommato i furbi poi alla fine spesso ottengono quello che riescono a cavarsela. Grazie Giulia anche per oggi. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Anche la CISL è contraria all'innalzamento dell'età pensionabile per le donne nel pubblico impiego, ribadisce la sua contrarietà anche la CGIL. In questo clima oggi pomeriggio si svolge l'incontro tra governo e parti sociali sulla crisi. Riparte a febbraio la corsa alla cassa integrazione, c'è stato un incremento del 553% rispetto allo stesso mese del 2008, lo rende noto l'INPS. Lufthansa lancia dal 1 aprile 3 rotte nazionali da Malpensa per Roma Fiumicino, per Bari e per Napoli. Israele è un cancro da estirpare, sono parole dell'Ayatollah Khamenei, guida spirituale dell'Iran. Scagionati dal DNA, i due romeni arrestati per lo stupro nel parco della Caffarella a Roma. E i prognosi riservate in un ospedale di Viterbo, il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Riccardo Nencini, rimasto ferito in un incidente stradale. E dunque, il sistema antipianisti, naturalmente non i musicisti, anche se abbiamo voluto accompagnare la cosa con un po' di musica, ci riferiamo al nuovo sistema di voto alla Camera presentato oggi da Fini. Elisabetta Fiorito, allora, in cosa consiste? Più o meno lo sappiamo, però riepiloghiamo un attimo. La vita sarà impossibile per i pianisti, almeno all'interno dell'emiciclo di Montecitorio. Il presidente della Camera Gianfranco Fini ha approvato il nuovo sistema con noi della stampa parlamentare. Ogni giornalista ieri ha rilasciato la propria impronta digitale, anch'io sono andata nell'ufficio apposito e ho rilasciato la mia impronta dell'indice sinistro per votare oggi. Ci hanno fatto accomodare in aula, ognuno con la propria tessera, e abbiamo votato. In particolare abbiamo votato un emendamento proposto dalla stampa parlamentare, una proposta di legge virtuale che riduceva il numero dei deputati da 630 a 400, ma virtualmente è passato un emendamento ancora più consistente, quello del dimezzamento dei deputati a 300. Ma a parte questo, tutto ciò serviva per vedere se il sistema funzionava. Abbiamo scoperto così che è un pochino troppo lento, l'ho fatto notare personalmente al presidente Fini, rispetto al ritmo delle votazioni, che quando iniziano sono abbastanza serrate. Fini però ci ha assicurato che non ci sarà un allungamento dei tempi parlamentari e che martedì 10 marzo, la prima seduta dopo la pausa di una settimana, i lavori della Camera riprenderanno con il nuovo sistema. Non tutti i deputati, ci ha detto Fini, hanno rilasciato le minuzie, ovvero le impronte digitali, ma ha assicurato che rivelerà i nomi di quanti non acconsentiranno. Il presidente della Camera comunque è fiducioso che saranno una minoranza e che non ci sarà nessun caso politico. Grazie. Grazie Elisabetta Fiorito. Allora, dicevamo, tempi duri per i pianisti, ossia coloro che votano al posto degli altri, insomma. Sì, noi restiamo in tema di politica perché va avanti il confronto tra N e Forza Italia in vista del congresso di Fondazione del Popolo delle Libertà il 27 e 28 marzo. In una intervista alla stampa, il ministro delle politiche europee di Alleanza Nazionale Andrea Ronchi replica Sandro Bondi dicendo che la nascita del PDL non è l'ingresso di N in Forza Italia. E noi continuiamo a raccontare diversi punti di vista sul partito che sta per nascere. Oggi Paolo Piacenza ha sentito il vicepresidente del Senato e dirigente di AN, Domenico Nania, gli ha chiesto su quasi gli valori deve puntare il nuovo soggetto politico. Direi che i valori sono sostanzialmente l'identità nazionale, una visione liberale dei rapporti sociali e un animo popolare, che poi sono i valori che si scrivono nella storia, nelle radici del nostro paese. La forma partito AN punta sul partito di territorio, Forza Italia sul partito leggero, come troverete l'equilibrio? Guardi, io questo problema l'ho affrontato anche nello specifico in una pubblicazione che dovrebbe uscire tra una settimana, che appunto si intitola Una nuova idea dell'Italia, ed indico, a mio avviso, per il PDL, ma vorrei dirle non solo per il PDL, come partito della società di oggi e quindi di domani, il partito a rete. Secondo me, tenuto conto delle tendenze mediatiche a riconoscersi in una leadership di carattere nazionale e tenuto conto della gravità e del rilievo dei problemi sul territorio, il partito a rete mi sembra quello che può rappresentare il punto di equilibrio e, come dire, l'uscita dai partiti liquidi o dai partiti virtuali senza tornare alla vecchia pratica dei partiti pigliatutto, delle correnti o costruiti per correnti o burocratizzati. Il partito a rete che si fonda su ciò che esiste sul territorio, quindi sui talenti e sulle micro comunità, le micro organizzazioni, movimenti, può essere, come dire, una risposta adeguata rispetto alle dinamiche della società moderna. Ecco, però non c'è il rischio che questi talenti poi contino poco in un partito in cui decide tutto il vertice o il leader? Questo rischio c'è. Non è un problema che riguarda il PDL con il cosiddetto berlusconismo, ma è un problema diffuso della società italiana. Le tendenze alla democrazia diretta e alla leadership sono proprie di tutte le democrazie avanzate e mondiali. Dobbiamo fare in modo che anche i partiti rispettino quel tasso di democrazia indispensabile che invece sembrano da qualche tempo voler negare. L'ultima domanda, va bene eleggere Berlusconi per alzata di mano? Io personalmente sono contrario. Sono per dei voti che si manifestino in assoluta libertà e quindi in quanto tali devono essere, la segretezza del voto deve essere garantita. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia e da Alessandra Tedesco, coordinata da Daniele Biacchesi e con in regia Peter Bescapè. Come sempre, se volete scriverci, l'indirizzo è extralarge@radio24.it. per ascoltare questa puntata e trovare altri contributi audio, l'indirizzo è www.radio24.it. Il prossimo giornale radio è alle 15, GR Extra Large torna domani alle 13. Adesso la linea va a Tempo di Sport. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.